se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. "No say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack." Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and handed him with a she. She says, "Hey babe, take a walk on the white side." Said, "Hey honey, take a walk on the white side." Mi portate una lavagna, ecco, per favore, grazie. L'importante è che non mi porti il tavolo e la scrivania, perché sennò è quella. Metto rosso. No, verde, verde porta Speranza. Lei, pur di non avere il rosso, il suo editore non vuole si usi il rosso. No, vabbè, allora, no, no, allora di rosso. Allora, no, no, no, no, scusa. No. Metto verde perché no, è la Speranza. No. Said, "Hey babe, take a walk on the wild side and the cold girls go." Vengo alle minime. Cosa accade sulle minime? A questi, a tutti questi, gli viene dato una cosiddetta quattordicesima. Viene più o meno 80 euro al mese. No, magari 50 euro sono questi qui. No, viene 40 euro al mese. Viene tra i 40 e dipende da quanto è la pensione minima, perché è una percentuale. Everybody had to pay and pay. Hanno stampato anche le banconote da 80 euro finte per prendermi in giro. Che fa la foto? Certo. Mette su Instagram. Bravo. Gliela firmo. Gliela firmo. No, c'è da scrivere. Walk on the wild side. Devo ecco chiudere. Perché ce l'hanno con me. Vedete? Senti, io devo chiudere. Buon via. Perché c'ho la pubblicità. Faccio una buona serata. Ah, mi sta mandando via. Va no, bene, no. Grazie mille. In bocca al lupo, grazie. You should have seen him go go go. They said, "Hey sugar, take a walk on the white side." Matteo Renzi ieri a Rete 4, a Quinta Colonna, da Paolo Del Debbio, ha firmato il patto della lavagna, signori. Cari signori pensionati, care signore pensionate, potete dormire sonni tranquilli, arriva una bella saccocciata di soldi, così promette Renzi. Vi aumenta la quattordicesima. Adesso mi faccio amare da tutti i pensionati che ci ascoltano, è sempre così, è l'Italia. Una bella saccocciata di danari ai pensionati che si vota, e quelli votano. E i giovani? E i giovani? Lorenzo Nespoli, e te? E te arrangiati, eh. Cioè, uno potrebbe, non so, prendere il paese, ribaltarlo, fare una riforma della giustizia, fare una riforma della burocrazia, basta, via la burocrazia, abbattere la disoccupazione giovanile che è il 40%, distruggere, devastare, far ripartire, dai giovani, la speranza, state qui invece di andarvene in America appena potete, fate benissimo, o a Copenaghen, o in Giappone, o in Asia, nell'Africa che cresce, state qui, no, no, no, no, no, andate pure, andate, andate, io intanto do una bella saccocciata di denari ai pensionati, non tanto perché quelle sono i soldi che abbiamo, insomma la coperta è corta, poi una saccocciatina così, un gruzzoletto a fine mese, così i pensionati sono un po' più sereni, votano come si deve, e avanti così. Said, "Hey, honey." Amiche pensionate, amici pensionati, vi voglio bene. Voi pensate di no in questo momento, ma io vi voglio bene. riflettete su quello che ho detto, non è contro di voi, vi voglio bene. Candy came from out on the island. E lunga vita, lunghissima vita, ovviamente. In the back room she was everybody's darling. Alle 6:31 minuti siamo qui. Brutto cretino d'un Milan. Even when she was given head, she says, hey babe. Caro Lorenzo, ti ringrazio per aver mandato insieme al nostro alpino Peter Bescapè in regia, che qui è qui con noi. Che ci fai qui con noi? Dovresti essere in viaggio di nozze, caro alpino. Ah, più avanti il viaggio di nozze. L'alpino sabato si è sposato, ragazzi, che matrimonio. Scorrono ancora fiumi di gutturnio nel Piacentino. Allora, siamo qui. Siamo qui, tra l'altro, 3 ore fa c'è stato il dibattito televisivo tra Hillary Clinton e Donald Trump. Vedremo un po' chi ha vinto secondo i sondaggi sempre molto precisi degli americani, che poi dicono chi è andato meglio, chi è andato peggio. È stato un duello soprattutto sulle tasse, sull'ISIS. Io non l'ho visto, lo dico, perché sennò se anche alle 3 di notte mi devo svegliare, poi mi ricoverano nel giro di 3 giorni e va già bene svegliarsi alle 5, ma siamo qui. Questo è 24 mattino. Intanto voglio salutare Federico Novella, eccolo qua, il conduttore del TG4. Come va? Tutto bene, tutto bene. Ieri Renzi è venuto da voi, a dare questa... È venuto da noi, il patto, certo, della lavagna. Patto della lavagna. Ero rimasto a Tremonti, pensa. Ti ricordi Tremonti con la lavagna? Evidentemente senza la lavagna patti è stata... però, senza, patti. Senza patti però, non aveva fatto un patto Tremonti. No, senza patti, anche Berlusconi era un grande partito della lavagna. Chi lo sa, magari era la stessa lavagna. Magari non lo so. E infatti Renzi era preoccupato lì, ha detto non fate la stessa cosa. Renzi aveva fatto... Berlusconi aveva fatto il patto con gli italiani. Ma la lavagna funziona però, funziona soprattutto con i pensionati. I pensionati le lavagne vengono attirati dalle lavagne, soprattutto quando gli dici che gli aumenti la 14ª. Soprattutto, no? Soprattutto quello che c'è scritto sulla lavagna. Caro Federico Novella, io sono molto felice perché qui al Parlamento abbiamo un nuovo ingresso che con noi non sa che tipo di patto non della lavagna ha siglato, e che se poi ci divertiamo lo chiameremo 1000 volte, lui poi ci maledirà per la sveglia. È un filosofo, è uno scrittore, il suo ultimo libro è Tutta la verità sull'amore. È Franco Bolelli. Buongiorno Bolelli. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Sì, ultimamente non sono abituato a svegliarmi a quest'ora, ma per voi lo faccio. Ecco, subito, così. Non ci si abitua mai, però. Prima volta subito, piazza lì, come dire, che è il messaggio in codice Federico, del tipo non ci riprovate una seconda volta. No, ho già dato, non c'è un problema. Ecco. Allora, qui dobbiamo aprire il Parlamento, perché c'è il solito Renzi. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente, accorrete al Parlamento, abbiamo barman generoso. Allora Bolelli, la situazione è questa: qui al Parlamento si può dire quello che ci passa per la testa, tanto non ci ascolta nessuno, va benissimo. Allora, partiamo proprio da questa storia dei pensionati. Sono stato troppo cattivo, Bolelli, con i pensionati? No, perché è vero, perché mancanza di un piano globale, mancanza di un piano di crescita che soprattutto lavori sulle giovani generazioni, che vengono sempre usate strumentalmente, ma qui si dà veramente rarissimamente voce e contributo, questa sa di toppa, è del tutto evidente. Nello stesso tempo però dall'altra parte ci sono toppe necessarie, certo. Cioè, quindi sembra una cosa plausibile, gradevole, cioè, ma no, sono felice per il provvedimento. Non vedo il provvedimento di Renzi negativamente nella maniera più assoluta. No, ma io sono felice anche per i pensionati. Molti hanno veramente difficoltà e quindi arrivano a fine mese con difficoltà a pagare le bollette. Quindi se hanno quei 50, 60, 70 euro in più, viva. Ho visto anche che c'è altro elemento non da poco: una riduzione delle more sui ritardi delle tasse, eccetera. Perché le more attualmente sulle tasse non pagate e ritardate sono un taglieggio da sceriffo di Nottingham, cioè, per cui anche questo è un elemento buono. Certo, non ne ricaverei una strategia di crescita, che è un'altra cosa. Esatto, no, questo è il tipo di osservazione. Va bene gli 80 euro, va bene le 14esime, va bene tutto, a parte bisogna vedere se ci sono i soldi, ma quello, insomma, c'è un'Europa vigile che ci guarda, però è chiaro che sarebbe bello vedere proprio una strategia più totale, più globale. Non so, Federico, tu che ne dici? No, avete ragione voi. ci sono tante toppe una in fila all'altra, poi alcune di queste toppe sono anche sono giuste, per carità. Manca una visione, manca una politica economica in questo governo. A me non piace per esempio il fatto che quando si parla di pensioni si mescola la previdenza con l'assistenza sociale. A me non piace il fatto che io debba pagare i contributi per non so, la cassa integrazione, per le pensioni ai disabili. È giusto pagare la cassa integrazione e le pensioni ai disabili, ma fatelo con la fiscalità, con le tasse, cioè non è che dovete prendere i miei contributi in teoria sono miei. Poi su questa quattordicesima, che devo dire? Siamo in campagna elettorale da oggi? Possiamo dirlo? Siamo in campagna elettorale. Siamo in campagna elettorale. Pensionati sì, votano, ricordiamoci. Perché, esatto, si vota il 4 dicembre, signore, è stata fissata... 4 dicembre, esatto. Hai appuntamenti, Federico? No, 4 dicembre. Il 4 dicembre mi terrò libero il 4 dicembre. No, cioè, magari sei uno di quelli che programma e già ha qualcosa da fare il 4 dicembre. Mi terrò libero, sarà una lunga campagna elettorale. Sarà lunga. So, il 5 dicembre è il mio compleanno, per esempio, se vuoi prendere un impegno, perché almeno il 4 dicembre ci fanno la festa. Per prefesteggiare, prefesteggiare. No, ecco, una cosa c'è da dire, c'è anche la queste cose non le capisco, c'è anche una polemica lunghissima, oggi un dibattito sui giornali sulla data. Cioè non va bene neanche la data agli italiani, non lo so, Bolelli ha capito qual è la polemica sulla data? No, assolutamente no, me ne sono stato rigorosamente alla larga. Oh, benissimo, fa benissimo, fa benissimo. Ma perché l'unica cosa vuole... per noi a Milano effettivamente casca su una specie di ponte, perché c'è la vacanza del 7 che è Sant'Ambrogio, sì? E qui effettivamente sembra un mini ponte quello, però io credo che tanto qui qualunque cosa si decide c'è una parte a cui non va bene per principio, per cui credo che la polemica sia abbastanza inutile quella sulla data. Ma questo sì, dai, il 4 dicembre, ma che sì, è la prima volta che si vota a dicembre, e allora cioè, non è la notte di Natale comunque. Esatto. Il 4 dicembre non voteremo il 24, abbiamo detto il 4 di dicembre. State tranquilli, cari. Ma sì, perché poi ognuno vuole essere consultato anche sulla data, quello mi sembra francamente troppo. No, diverso è il discorso di dire, guarda che, ne avrei già parlato, guarda che se tu il quesito me lo formuli così, è uno spottone per il sì. Ecco, lì c'è una polemica effettivamente che vale un po' di più, perché Renzi dice la formulazione di questo quesito è un po' il sunto della legge che è stata approvata in Parlamento, però come dire, il testo suona un po' come dire, approvate il testo per ridurre il numero di parlamentari, contenere i costi di funzionamento delle istituzioni, sopprimere il CNEL. Bolelli è uno che deve votare, cioè uno che non si informa. Certo, evidente, mi sembra chiaro. Cioè, voglio dire, con l'aumento della quattordicesima, no, questa non c'è. Sì, però nello stesso tempo, se posso permettermi, il vantaggio di rendere molto chiara la domanda, nel senso che io mi ricordo su altri referendum, era un disastro. Come dire, occorreva un'interpretazione dotta della questione perché era totalmente incomprensibile. In questo caso ammetto che a quel dato di strumentalità però è perfettamente comprensibile, se non altro. Sì, però l'hanno interpretata loro, e questo è il problema. Cioè, bisogna capire se è comprensibile, e lo è comprensibile, perché è chiaro, effettivamente c'erano referendum di 30 righe delle quali non si capiva assolutamente nulla. Uno doveva sapere sì no prima di entrare, anzi rischiava anche di sbagliarsi se leggeva il testo del quesito. E però chiaramente tu, Federico, dici che l'hanno formulata in maniera un po' così, sì, un pochino... l'hanno formulata in maniera un po' furbetta. E perché evidentemente pensano che se la giocheranno fino all'ultimo voto, e quindi si sono dati una mano anche da questo punto di vista. Poi è vero che è il titolo della legge questo, non è che lo sono inventato, è stata votata, però abbiamo stata votata. Dove sei andato? In cantina? Sei sceso in cantina? Mi senti ancora? Sì, adesso ti sento. Ecco. No, sei andato in cantina un attimo. No, sono andato in cantina. Ma è vero che è stata votata in Parlamento quel titolo lì, però è stata votata con tutte quelle forzature che sappiamo, quindi si sono dati una mano. Mano, va bene. Esatto. E comunque vedremo, sarà una lunghissima campagna elettorale. Bolelli, quante ne ha viste le campagne elettorali? Cosa dobbiamo... Troppe, e questa mi inquieta particolarmente. Io sarò una delle bravissime circostanze in cui andrò a votare, perché normalmente una percentuale di astensione storicamente è quasi all'unanimità. Stavolta... E come mai non va a votare di solito? perché mi annoia il dibattito in generale, perché in Italia, dappertutto per carità, però in Italia c'è costantemente questa ideologizzazione di qualunque cosa, per cui io non capisco la logica degli schieramenti. Bisogna per forza stare da una parte o dall'altra in maniera frontale, in maniera faziosa. Io non sono per i compromessi, sono per gli scontri, eccetera, però vorrei che fossero un po' più ricchi di così. Devo dire che però la stessa cosa la vedo nel dibattito sulle elezioni presidenziali americane. Adesso ne parliamo, lo adoro, dichiaro, lo adoro, adoro Bolelli, caro Federico, sì, mi ha conquistato subito, ma è vera questa cosa, ma anch'io non sopporto, ieri appena, anche adesso, sei un anti-renziano, ieri ho detto una cosa, sei un renziano di merda, ieri mi è andato del renziano di merda, oggi mi danno dell'anti-renziano schifoso, quindi secondo me sei solo milanista, ma infatti io e all'acqua di rosa basta, e all'acqua di rosa è gravissimo. Come è gravissimo, Bolelli, che squadra tiene? Sono dall'altra parte, mi dispiace, è interista, non mi è mai piaciuto Bolelli. chi l'ha chiamato Bolelli, no scherzo, mi sono rovinato con le mie mani, ma io sono assolutamente della sua parte, ma voglio dire, cioè, perché in Italia bisogna tifare sempre o di qua o di là? Allora, io ho deciso così, vi metto in contatto, cari ascoltatori, quello che mi dà dell'anti-renziano, quello che mi dà del renziano di M. Parlatevi, decidete, fatemi sapere da che parte sto, che non lo so neanche io, faccio fatica a stare con me stesso quando mi sveglio al mattino e voi mi volete schierare con Renzi o contro Renzi, ma chi se ne frega? Cioè, a me non frega niente, poi Federico forse sì. Vabbè, non lo so. Comunque, invece, in America c'è un dibattito molto vibrante, c'è da dire che sono i due personaggi più impopolari, questo da sondaggi, nella storia recente americana, questi due possibili presidenti, Hillary Clinton e Donald Trump. Vabbè, sentiamo giusto qualche sonoro di come è andata questa notte. I will release my tax returns against my lawyer's wishes. When she releases her 33,000 emails that have been deleted, questa è l'accusa di Donald Trump per chi sa l'inglese, no? Dirò tutto sulle mie tasse quando Hillary Clinton dirà delle sue 33,000 mail rubate, occultate, o meglio, quando era segretario di Stato. Non si risparmiano colpi, però è interessante, Bolelli, dal punto di vista proprio mediatico, ma sa che un terzo degli americani scelgono dopo i dibattiti televisivi? Poi dici che la TV non conta ancora, Conta e come? Su queste cose conta molto, assolutamente. È vero che c'è un'altra parte che sta rigorosamente alla larga dal dibattito, perché, esempio, io adesso svegliandomi ho visto un post di mio figlio che abita a Los Angeles e che vota in America, che dice... tra vedere il dibattito e andare a fare un allenamento di judo e prendermi a botte, non ho il benché minimo dubbio, e vado in palestra. Vabbè, perché magari si informa, poi legge, approfondisce. Sì, no, è assolutamente strainformato, però ha provato anche, cioè lui è convinto che di tutti i dibattiti che ha visto questo sia nettamente il peggiore, cioè di tutti gli scontri elettorali che ha visto questo sia nettamente il peggiore. Cioè, ma perché è stato l'acqua di rose, non è stato abbastanza... No, perché sono due personaggi, diciamo, in cui le lacune prevalgono nettamente rispetto ai meriti, mi pare. Cioè, Hillary è chiaro che è molto più credibile, però la sua totale mancanza di umanità, di carisma, di calore, eccetera, eccetera, credo che alla fine possa pesare notevolmente. E che dice suo figlio? Come andrà a finire questa... È chiaro che Hillary sarà favorita, non c'è la minima discussione. Io però starei attento a non demonizzare eccessivamente Trump, nel senso che Trump dice delle cose, la maggior parte delle quali assolutamente sgradevoli, ma la maggior parte delle quali non si sognerebbe mai di fare nel momento in cui diventasse presidente degli Stati Uniti. Sta portando dalla sua un elettorato di pancia e deve dire quelle cose lì. Sono d'accordo anche su questo, cioè sono le forzature della campagna elettorale, poi dopo figurarsi se mai da potenziale presidente potrebbe dire o potrebbe fare alcune delle cose che promette di fare, ecco. Questo però un pochino inquieta. Per esempio, ecco, Hillary Clinton gli rimprovera il sessismo, no? Da donna, dice, voi avete sentito Trump più volte definire le donne pigs and dogs. My this God, is a man who has called women pigs, slobs, and dogs. And someone who has said pregnancy is an inconvenience to employers. Who has said women don't la gravidanza è un problema per le lavoratrici. E Donald Trump, a dire serio, non l'ho mai detta una cosa del genere. Vabbè, insomma, il sessismo di Trump. Ripartiamo da qui, tra un attimo. Siamo con Federico Novella, siamo con Franco Bolelli, tra poco dopo il traffico. Mi scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti, grazie. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta... Scusa Milan, in Svizzera hanno votato un referendum per limitare i lavoratori stranieri e uno che si lamenta in Italia è Maroni. Non mi tornano i conti. E buongiorno Milan, ma è la stessa cosa a Monte Carlo. Danno il lavori primo a Monegasche. Alino, dimmi perché quando ascolto solo te. He doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes, because the only years that anybody's ever seen were a couple of years when he had to turn them over. La Clinton sempre sulle tasse, Federico Novella, cioè sulle tasse di Trump che non avrebbe pagato, quanto guadagna, quanto è il suo reddito, quanto paga in tasse. Sì, ma guarda, io sono d'accordo con voi, io sono un ammiratore del sistema americano e anche un appassionato delle campagne elettorali americane. Sì. Questa però è un po' sottotono perché ci manca il protagonista, cioè da una parte abbiamo uno che è vero, dice, parla diciamo alla pancia degli americani, però non è che abbia molto prestigio, no, amministrativo. Dall'altra c'è una che, per carità, è sicuramente più competente, però non ti vende un sogno come faceva Obama, capito? Sì, sì. E quindi vedremo chi vince. Secondo me, almeno i sondaggi dicono che ieri se l'è cavata molto meglio la Clinton. Sì. I sondaggi di solito in America ci prendono. Però questa volta, non lo so, mi sono divertito di più con Obama, devo dire la verità. Più con Obama, è vero. Ed sono passati 8 anni. Sono passati 8 anni, poi non è vero quello che dicono alcuni detrattori di Trump, no? Se vince Trump succede il finimondo, succederà assolutamente niente se vince Trump. Il sistema americano ha gli anticorpi al suo interno per eliminare qualsiasi estremismo e il presidente, quando diventa presidente... diciamo così, sì. Si mette la cravatta e diventa comunque una persona rispettabile. Si dà una regolata. Nel hanno caso, avuto come presidente caso. Un attore, gli americani, esatto. Ricordiamo. Ronald Reagan. Effettivamente sì. Giustamente un'ascoltatrice, Tatiana, mi corregge, dice che la frase di Hillary Clinton è il problema della gravidanza sarebbe per i datori di lavoro. Questo avrebbe detto Trump, che è un datore di lavoro, come dire, anche influente, ma non l'ha mai detto. Nonostante così. L'ora, i tuoi ascoltatori sono sempre attentissimi. Attentissimi, non ti fanno passare nulla. Non ti fanno passare nulla. Però Bolelli, allora volevo sottoporre, visto che Franco Bolelli è anche un filosofo, c'è tutto questo dibattito sulle università italiane, dove ci sarebbero, no? Perché sorride Bolelli? Dove ci sarebbero dei favoritismi, i nepotismi soprattutto. E allora c'è un professore di Bologna, oggi è intervistato dal Corriere della Sera, che fa una cosa strana. Strana, non lo so, voglio sottoporre a voi. Si chiama Lucio Picci, ha detto: siccome per noi professori il plagio è impunito, ho deciso che da quest'anno non farò rispettare le regole che non valgono per noi professori agli studenti e quindi siete liberi di copiare agli esami. Ecco, questo, siete liberi di copiare agli esami. Come noi professori non rispettiamo molto le regole, fate vobis anche voi. Professore, che ne pensa? Che dobbiamo dire? Questo, ad esempio, in America sarebbe considerata causa di licenziamento immediato, perché la regola per cui non si copia è un assoluto tabù, non si può toccare nella maniera più assoluta. Però è vero che non copia neanche i professori, non soltanto appunto, questo l'ha fatto come provocazione, chiaramente, no? Allora, io non ho mai volutamente messo piede nell'ambito accademico, perché ne ho sempre avuto un'istintiva diffidenza e poi probabilmente non ci sono particolarmente portato, mettiamola così, riesco meglio in altre materie. Nello stesso tempo però, almeno qui a Milano, ma credo in generale, le università italiane stanno attraendo un mucchio di studenti stranieri. Sì. E secondo me è un elemento di cui bisogna tenere conto, per cui se posso dire una cosa contro l'accademia, avrei bisogno di 8 ore di trasmissione, sì, perché detesto tutto quello che è l'istituzionalizzazione dell'insegnamento in Italia. Ha prodotto le peggiori cose che sia possibile immaginare, soprattutto ha prodotto una mancanza di coraggio, una mancanza di voglia di lanciarsi, di produrre idee e non soltanto di fare interpretazioni vecchie e inutili, francamente imbarazzante. Nello stesso tempo però non è soltanto così, nel senso che mentre è vero, tu citavi prima, tanti studenti italiani che vanno all'estero, mio figlio l'ha fatto del liceo e non è più tornato indietro. Ce ne sono molti che arrivano qua. Ce ne sono molti che arrivano e noi ancora a discutere se sia giusto, per esempio, insegnare in inglese. C'è tutto il dibattito al Politecnico di Milano, abbiamo dedicato trasmissioni, se sia giusto. Ma viva Dio, insomma, se arrivano gli studenti dall'estero è anche giusto che ci siano corsi in inglese, altrimenti non è che uno dall'Uzbekistan è obbligato a imparare l'italiano. No, c'è un'attrattiva evidentemente, io credo per l'Italia in generale, e nello stesso tempo che però, mentre prima si traduceva soltanto nell'andiamo a vedere i monumenti, adesso sta diventando per le giovani generazioni un punto di riferimento. Ed è curiosamente una forma di immigrazione di cui si parla pochissimo. Primo perché è esiguo evidentemente e secondo perché non pone nessun problema, anzi semmai al contrario. Però è curiosa perché noi stiamo attraendo anche questa forma di immigrazione. Bene, bene, questa è una cosa mi sembra molto positiva. Caro Federico, hai fatto i compleanni, gli auguri di compleanno a Totti? Sì. Li facciamo adesso, infatti ma non immaginare... te ne frega niente, perché devi fare così, perché ma mi devi seguire su tutto, no, ma no. Mi immaginavo il tuo passaggio da Hillary Clinton a Hillary Blasi, cioè, attraverso quale percorso? No, sai perché ho sfogliato una pagina e c'è qui Hillary Blasi ovviamente davanti ai miei occhi, perché ha trattato malissimo Spalletti, l'allenatore della Roma, ha trattato malissimo Spalletti senza dirlo al marito. Dirlo al marito, senza, però quella è la cosa bella, no? Che sarà stato accolto a Trigoria con grande affetto e pacche sulle spalle. Siamo riusciti a fare dibattito anche su questo, cioè è giusto che le mogli dei calciatori e delle celebrità parlino alla stampa del lavoro del marito senza chiedere permesso. Abbiamo riempito paginate anche su questo, siamo dei fenomeni. Siamo dei fenomeni, vabbè, insomma. Invece Bolelli ha fatto gli auguri a Jovanotti, ma sapete che Bolelli ha scritto anche un libro con Jovanotti? Viva gli tutto! Gli sto preparando un'email adesso particolare, sì, assolutamente. Vabbè, ma è oggi? O è un po'? È oggi, lo stesso giorno di Totti. Dai, facciamo questa cosa, neanche a caramba che sorpresa. Bolelli, un audio messaggio a Jovanotti. Tanto non l'ascolterà mai, sta dormendo, cacchio gliene frega. Che auguri gli facciamo per i 50 anni a Jovanotti? Ah, la cosa che voglio dire a Lorenzo è questa, che 50 anni sono per alcuni una cosa e per altri un'altra. L'età anagrafica è soltanto uno degli elementi, a parte che io personalmente credo che ho cominciato a divertirmi, mi sono sempre divertito molto, ma ho cominciato a divertirmi veramente di più dopo i 50 anni, per cui Lorenzo, io credo che l'energia vitale di Lorenzo, la sua curiosità bestiale di conoscere, di capire, di muoversi, di esplorare, sia qualcosa che lo proietta decisamente al di là dei 50 anni in sé. Ma è straordinario, ma questo lo tagliamo, lo mandiamo a Jovanotti, non sappiamo neanche come, non ho un indirizzo, ma qualcosa ci inventeremo. Io vi ringrazio, Federico Novella al TG4, ricordiamo alle 19, e Franco Bolelli, alla prossima. JP Morgan Asset Management vi presenta Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali e che tanki skate 24 mattino. Siamo qui alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, la rassegna stampa di 24 mattino. Siamo pronti a leggere appunto i giornali, o meglio, li leggo io per voi con gli schei. Va bene, dai. Andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo martedì 27 settembre, intanto una rapida carrellata delle aperture dei quotidiani, l'apertura del Sole 24 Ore, borse, banche sotto tiro sul caso Deutsche e tassi, questo è il titolo di prima pagina, e poi il referendum con la data 4 dicembre, il referendum a dicembre è il titolo del Corriere della Sera, per Repubblica referendum la sfida sarà il 4 dicembre. Il Messaggero si apre la sfida del referendum. Per Il Fatto Quotidiano, Renzi ci fa votare con l'Austria e cerca i soldi per gonfiare i sì, perché vota anche l'Austria il 4 dicembre. E non ho capito il nesso, guardate tutte queste polemiche sulla data, l'ho già detto, mi sembra una cosa... Vabbè, comunque, questo è il dato di fatto. Il Fatto Quotidiano, tra l'altro, ha una prima pagina con una copertina di quattro fogli diversa, è un no gigante, referendum, il 4 dicembre votiamo no, poi c'è la prima pagina classica. Il Fantastico 4 è invece il titolo del Manifesto, con una foto di Renzi. Per l'unità 4 dicembre sì al cambiamento. E invece aperture diverse per La Stampa, Renzi sfida l'Unione Europea su terremoto, migranti e scuole. La Verità, l'INPS taglia le pensioni di reversibilità. Questo è un titolo abbastanza inquietante, lo vedremo. Da ottobre l'assegno a vedove e vedovi non sarà più automatico, ma legato a parametri economici come TFR, BPT e case possedute. L'apertura di Libero invece, l'Europa dà la purga a Renzi. Avvenire, priorità al lavoro per ridare la fiducia, parla il cardinale Bagnasco. Abbiamo anche il giornale, pensioni, mancano i soldi, questo è il titolo di prima pagina. Allora però voglio parlare di salute. Salute di noi italiani. In questo rapporto che racconta Giuseppe Remuzzi sul Corriere della Sera è stato stilato da 700 scienziati, un mega studio molto autorevole pubblicato sulla rivista Lancet e fotografo lo stato di salute nel mondo, ovviamente anche con la classifica e c'è anche l'Italia. La salute del mondo, pagina 21 del Corriere della Sera. Mega studio realizzato con l'Italia è al 20° posto. Tra i punti dolenti dell'Italia, la qualità dell'aria e i troppi bimbi in sovrappeso. Racconta Giuseppe Remuzzi uno studio che è una pietra miliare nella storia della medicina, pubblicato 3 giorni fa da Lancet. Frutto di uno sforzo ciclopico di 716 scienziati di 515 istituzioni di quasi 200 paesi del mondo coordinati da Christopher Murray della Washington University a Seattle. Un'idea partita nel 2007 dalla Banca Mondiale, coinvolta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Harvard, Johns Hopkins, Imperial College di Londra, tantissimi altri istituti. In queste 38 pagine di studio, sono messi in fila i 188 paesi del mondo utilizzando una scala da 0 a 100. Volete sapere il paese che ottiene di più? È l'Islanda con 85, ultima in classifica invece la Repubblica del Centrafrica, 20 punti. Gli Stati Uniti sono a 75, dietro Slovenia, Grecia, Giappone, tutti e tre a 76. E l'Italia? Ecco, l'Italia ha 78 punti come il Portogallo. E scrive il professor Remuzzi, è una grande delusione, almeno per me. Mi sarei aspettato di trovare l'Italia, se non proprio tra i primi paesi, almeno dentro i 10 di testa. E invece i primi 10 sono Islanda, Singapore, Svezia, Andorra, Regno Unito, Finlandia, Spagna, Olanda, Canada e Australia. E invece no, meglio di noi fanno anche Norvegia, Lussemburgo, Irlanda, Malta, Germania, Danimarca, Cipro, Belgio e Svizzera. Cosa c'è che non va da noi? Troppi adulti e soprattutto troppi bambini in sovrappeso. Andiamo male come qualità dell'aria e fumo di sigaretta e per ciò che riguarda anche l'HIV. Il parametro considera il numero di nuove infezioni ogni 1000 persone. Siamo messi peggio di chi ci precede anche per numero di morti in occasione di catastrofi naturali. Non andiamo troppo bene nemmeno per consumo di alcol e violenza nei confronti dei partner. Andiamo malissimo per quel che riguarda gli incidenti stradali. Ma non c'è proprio nulla in cui siamo più bravi di tutti. Una cosa c'è: noi, con pochissimi altri paesi al mondo, Svezia, Inghilterra, Finlandia, Olanda e Svizzera, abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale. E il nostro è anche un po' speciale. Si occupa di tutti, proprio di tutti, indipendentemente dal ceto sociale, dalle possibilità economiche. Gli altri, in tanti paesi del mondo, vivono col terrore di ammalarsi. Noi sappiamo che quando ci ammaleremo ci sarà qualcuno che si occupa di noi. Ma noi, del nostro servizio sanitario, non ne parliamo abbastanza, non ne siamo abbastanza gelosi. Non riusciremo a difenderlo finché non ci renderemo conto tutti che è la cosa più preziosa che abbiamo. Questo è il professor Remuzzi, un articolo commento su questa classifica della salute nel mondo, lo trovate sul Corriere della Sera a pagina 21. Mentre questa non è una sentenza, ma una decisione dell'INPS di Milano che, attenzione, potrebbe aprire ovviamente un vaso di Pandora di decisioni simili. E riguarda il bonus bebè. Ricordate il bonus bebè, non so quanto è, che si dà a chi fa un figlio. C'è una svolta sui migranti perché l'INPS di Milano racconta il giorno con Nicola Palma e pare la prima decisione del genere. Ha riconosciuto il diritto anche al bonus bebè a un cittadino extracomunitario turco titolare solo del permesso unico lavoro, cioè senza neppure la carta di soggiorno. Il bonus bebè varato dal governo Renzi prevede, eccolo qua, il contributo di 80 euro mensili ai genitori nati ai genitori dei bimbi nati tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 con reddito ISEE inferiore a 25.000 euro. Ne hanno diritto i cittadini italiani di uno Stato dell'Unione Europea, i cittadini extra Unione Europea titolari di carta di soggiorno di lungo periodo, esclusi tutti gli altri immigrati. Eppure l'INPS ha deciso di darlo. Il motivo? La norma che prevede il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo per ottenere il bonus sarebbe in contrasto con una direttiva comunitaria, la 98 del 2011, non sto a entrare nella burocrazia, sta di fatto che l'INPS ha deciso così, l'INPS a Milano, e allora l'avvocato del cittadino turco dice la decisione fa sperare in un graduale ripensamento da parte dell'istituto, che vuol dire alè, soldi per tutti, tanto ce n'è. Mettetevi pure in fila. Oh, signori, oggi parleremo un pochino anche di università dove il merito pare non ci sia granché, soprattutto nell'assegnazione delle cattedre. Ci sono tante denunce di nepotismi negli anni. E allora va sottolineato quello che scrive il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella, pagina 20, è la storia di un docente di politica economica a Bologna. Che cosa ti ha combinato il professor Lucio Picci? Ha deciso questa cosa. Visto che il plagio è impunito per noi professori, io farò lo stesso con gli studenti. Potete pure copiare agli esami. Il docente fa copiare gli studenti. Per noi prof il plagio è impunito. La protesta a Bologna: non faccio rispettare regole che in Ateneo non valgono. Luigi Ferrarella, pagina 20 del Corriere. Se siamo impuniti noi professori, ai quali un sistema garantisce impunità dal plagio, allora che lo stesso valga per voi studenti. Perciò, dall'inizio dei corsi 2016-2017 vi annuncio che non vigilerò per evitare che voi copiate agli esami, perché in coscienza non posso chiedere a voi il rispetto di regole che l'Università di Bologna permette a noi professori di violare. Con questa autodenuncia e una domanda di essere sottoposto a procedimento disciplinare, il professor Lucio Picci, ordinario di politica economica nella più antica università del mondo, ha inviato una lettera non solo agli studenti ma anche al rettore, che interpellato peraltro non commenta questa vicenda. Una sorta di obiezione di coscienza di Picci, autore nel 2011 di un libro sugli incentivi reputazionali della pubblica amministrazione pubblicato da Stanford University Press e che muove dall'asserita differenza di trattamento tra il caso di una studentessa sospesa 3 mesi per essere stata scoperta in un esame con un telefono e un auricolare nascosti, e tre casi di professori lambiti da sospetti di plagio. E allora questo professore dice, visto che è permesso a noi il plagio, perché non a voi? Ma se c'era un modo per denunciare dei sospetti di plagio tra professori, giusto, non mi sembra però che questa sia la soluzione. Più che altro mi sembra una provocazione a dire, e allora io faccio copiare gli studenti. Sta di fatto che questo succede all'Università di Bologna, mentre eccoci qua l'articolo che mi fa pinzare della giornata. E abbassate tutti gli oggetti contundenti a colazione, mi raccomando. Coltelli, marmellate che si spargono ovunque, altrimenti alla lettura della notizia. Se siete alla guida, ovviamente, come al solito, mani sul volante ben strette. Succede proprio ad Amatrice, a un mese e qualche giorno dal sisma, dove, racconta Flavia Amabile sulla Stampa, le case donate sono abusive. L'ultima beffa per i terremotati. La prima casetta di legno è arrivata 3 giorni fa, sembra l'inizio di un articolo stile Cappuccetto Rosso. L'ha consegnata l'associazione La Via del Sale. L'ha consegnata ad Antonio Guerrini, allevatore, uno dei tanti che da oltre un mese vive tra 1000 disagi in tenda. Han portato la casetta fino a Faizzone, 960 metri, l'hanno montata, hanno effettuato gli allacci. E mentre il signor Antonio e la famiglia speravano di poter soffrire un po' meno freddo e pioggia, arriva l'integerrimo tecnico comunale. E dice, anche se questa casetta è sul vostro terreno, è un abuso edilizio. È assolutamente da togliere. E per carità, dico io, di abusi edilizi ce ne siamo occupati. Gli abusi edilizi in Italia che sono ovunque, tollerati, a volte incentivati da alcuni comuni, vengono lasciati lì. Ma qua c'è l'abuso edilizio. Le case donate sono state attaccate lì. Via, via. Sgomberare, subito. Non è possibile una roba del genere. Vergognatevi, cazzo. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan, il frontaliere dell'informazione. E allora mandateci le vostre sigle al 349-238-6666 in audio, o anche i vostri messaggi che poi fanno parte della segreteria telefonica che mandiamo in onda alle 6.45 tutti i giorni. Mandateli in audio, ovviamente, così noi li mandiamo in onda. Allora c'è la data. La data è il 4 dicembre, la data del referendum, il voto referendum per la riforma costituzionale. E c'è la polemica. In Italia c'è polemica su tutto, anche sulla data. È la prima volta che si vota a dicembre, in inverno. Non ho capito, e allora va bene. E comunque. Poi il Fatto Quotidiano appunto mette questa notizia. Ci votiamo come votano in Austria per le presidenziali. Bene, mi fa piacere saperlo. Comunque c'è grande polemica. La polemica, secondo l'opposizione, è perché è stato messo il voto nell'ultimo giorno utile, insomma una campagna elettorale molto lunga che permetterà a Renzi quindi di recuperare con una campagna, come racconta il Messaggero con questo titolo, ventre a terra. Pagina 3 del Messaggero, il Premier in Consiglio dei Ministri racconta Alberto Gentili, appena annunciata la data del 4 dicembre si rivolge ai ministri, testuale, leggo così, ai ministri come fossero apostoli. D'ora in poi ventre a terra, andate e girate l'Italia palmo a palmo per spiegare il merito della riforma. Io sarò il primo a farlo, ma senza personalizzare lo scontro. Adesso raccontare appunto Renzi ai suoi apostoli, andate e predicate in pratica. Questo secondo il Messaggero. Anche pagina 3 del Corriere della Sera, ora il leader accelera, un tour 200 eventi anche in campo stile. Marco Galluzzo racconta che dopo l'incontro dibattito con il presidente dell'ANPI, dopo il confronto televisivo da Lilli Gruber con Marco Travaglio, considerato da Renzi un test vinto, ora nel futuro ci potrebbe essere un dibattito con Gustavo Zagrebelsky, giurista costituzionalista, autorevole fonte di ispirazione per i comitati del no, o addirittura, chissà, un confronto con Massimo D'Alema. Perché no? Dicono nello staff di Renzi. Insomma, un Renzi che punta a 200 eventi per parlare di questa riforma e cercare di convincere gli italiani a votare sì, con regista di tutto, Simona Ercolani, autrice, produttrice televisiva, che ha già collaborato con Renzi ai tempi della Leopolda e ora nelle vesti di consulente per la campagna per il sì. Voi capite, cari italiani, che cosa ci attende da qui al 3 dicembre? Avete un'idea? Avete già comprato l'elmetto? Ecco, voi capite che cosa ci attende. C'è un'altra carta segreta, raccontano ai giornali, che ha in campo, che vuol mettere in campo Renzi. È questa, il voto degli italiani all'estero. Sono 3.900.000 i voti sparsi per il mondo. Ed ecco, per esempio, fa notare molti quotidiani che non a caso il ministro Mariana Boschi in questo momento si trova a Buenos Aires. La carta segreta per Carlo Bertini, conquistare 4 milioni di italiani all'estero, Boschi e parlamentari, missione in Sud America. La carta segreta è quella che potrebbe fare la differenza, sono i compatrioti che votano oltre confine. 3 milioni 900 mila persone meno informate perché meno sintonizzate, senza canali TV, giornali italiani, una sorta di prateria da arare, come si usa dire in politica. E per questo il governo, muovendosi per tempo molto in sordina, ha già cominciato a seminare, perché i nostri connazionali voteranno 20 giorni prima del 4 dicembre per posta e bisogna muoversi subito. Anche per questo da ieri Boschi è in Sud America, missione ad hoc, ciclo di interventi su riforme istituzionali in vari consessi, tourbillon di incontri, cene, conferenze con imprenditori, grandi elettori, personalità influenti, ma non è la sola. Il capo del comitato per il sì, Roberto Kocianczyk, è già compreso nel suo ruolo di ambasciatore, è stato in Svizzera. Sta partendo ora per un tour in Canada, negli Stati Uniti. Un altro che non si risparmierà è Sandro Gozzi, che organizza eventi a una sua e-news. Insomma, la macchina è a pieni giri. Così Carlo Bertini a pagina 3 della Stampa. In tutto questo c'è già chi vede come una promessa elettorale ciò che ieri Renzi ha fatto a Quinta Colonna da Del Debbio, quando ha chiesto, o meglio è arrivata una lavagna e ha firmato il patto della lavagna, per l'appunto. Renzi ha subito detto che non confondetelo col patto con gli italiani di Berlusconi, ma ha preso un pennarello, ha segnato cifre sulle pensioni e ha spiegato che quest'anno cercheremo di mettere la 14ª delle pensioni, di farla arrivare fino a 1000 euro, puntiamo al raddoppio. Eccolo qua, i titoli sono conquistati, Mario Sensini, pensioni 14ª fino a 1000 euro, il premier puntiamo al raddoppio. Doppia 14ª per le pensioni minime, questo è il titolo di Repubblica, che aggiunge oggi c'è anche il via libera al DEF. L'obiettivo è aumentarle fino a 1000 euro. Io ho già detto prima, sono felice, sono contento, ci mancherebbe altro che mi arrivino già le critiche, i pensionati mi dicono, mi accusano di essere contro di loro, assolutamente no, sono felice se arriveranno più soldi alla fine del mese con la 14ª ai pensionati, ci mancherebbe. È un po' la solita misura all'italiana, una saccocciata di denari ai pensionati per tranquillizzarli un po', quando invece ci vorrebbe un piano strutturale di crescita, di sviluppo per tutti, magari anche per i giovani, ecco, che sono in gran parte disoccupati al 40%. E invece una saccocciata di denari in qualche modo, magari anche vicino a una tornata elettorale, fanno sempre comodo. A proposito di pensioni, però, oggi La Verità in prima pagina un titolo di apertura che suona così: parte il taglio delle pensioni di reversibilità. Certo, messa così inquieta un pochettino. Claudio Antonelli racconta che l'istituto di Boeri, quindi l'INPS, ha recepito una circolare retroattiva che riduce la platea degli aventi diritto tra vedove e vedovi. L'assegno verrà legato al TFR, al possesso di BTP e al possesso di case. Ma l'istituto non ha l'obbligo di comunicare le novità, dunque si rischia addirittura, secondo il quotidiano La Verità, di dover restituire denaro già incassato. c'è un'interpellanza della Lega Nord su questo. Claudio Antonelli spiega questa sorpresa da ottobre, e ottobre è dietro le porte, è alle porte, e quindi essendo qui dietro l'angolo è chiaro che il timore per questo, per questa novità sulle pensioni di reversibilità c'è. Ma guardate, uno che sa tutto, perché si informa quotidianamente, visto che ormai è alla soglia di questo passo fatidico della nostra vita, sa tutto di pensioni, è Mauro Meazza che è con noi. Buongiorno caro Mauro, come va? Tutto buongiorno, bene? Purtroppo devo smentire, devo correggerti, sono sì. molto più vicino di te alla ma non pensione, sai niente. Ma non sai ma niente. Non sono imminente, non sono così vicino alla pensione. Vabbè. No, se non so niente poi questo si vedrà, però intanto ti posso dire che mi informo tra la pagina 4 e la pagina 5 del Sole 24 Ore di oggi, sì. perché tutto questo movimento sulle pensioni, tra cui l'APE, presente l'APE, non nel senso dell'instetto ma dell'anticipo, andrà, come dire, a collegarsi alla legge di bilancio, già legge di stabilità, già legge finanziaria, insomma la manovra. Allora, oggi riferiamo in pagina 6 che si sta pensando di estendere l'APE social, cioè mm-hmm. quella per le categorie svantaggiate, l'incontro che dovrebbe essere, dillo tu come dovrebbe essere l'incontro, decisivo. Bravissimo, con i sindacati si terrà domani, perché oggi invece è il giorno del NADEF. Mm-hmm. Che cos'è il NADEF? Te lo spieghiamo nella pagina precedente, la pagina 5 c'è cioè la nota di aggiornamento al DEF. Mm-hmm. Insomma, quanti soldi ci sono e quanto ci può concedere Bruxelles con la famosa flessibilità. Flessibilità vo cercando che si cara, si potrebbe dire, parafrasando il poeta, ma poiché è martedì e non lunedì non parlerò in versi, ma essendo martedì ti ricorderò che oggi in edicola trovi con il Sole 24 Ore, trovi la casa. Oh, bravissimo, il fascicolo dei tuoi diritti che questa volta è dedicato a casa e condominio, quindi tutte le varie regole che, anche un po' le prassi, insomma, come comportarsi quando si chiede un mutuo, si affitta, si dà in affitto una casa e così via, il tutto nel volumetto che non devi venire a cercarmi al bar, no, vai in edicola e lo ricevi. No, l'ho già ricevuto qua sulla scrivania, mi ha atteso alle 5.30, era qua. Quanti vizi, quanti vizi, incredibile, vedi, potenza del mezzo. Allora, ricordati che essendo martedì, appunto io condominio, non parlo in endecasillabi, ma invece troverai la pagina di condominio, esatto, in norme e tributi. Oh, un attimo per favore di concentrazione, sì, qui Radio Fisco. Sì. Due importanti circolari dell'Agenzia delle Entrate diffuse ieri, l'una sul consolidato fiscale mm-hmm. e l'altra sulle blacklist. Mm. E tutti i particolari su norme e tributi di oggi, sezione che tu leggerai come sempre. Religiosamente. Bravissimo. Oh, poi ti voglio dire, sai che in Svizzera hanno fatto anche loro un referendum, loro ne fanno molti di più di noi, e hanno deciso che tra l'altro dovranno privilegiare o svantaggiare, come dire, i frontalieri, come ecco, te ti hanno definito appunto frontalieri, esatto, dell'informazione, no? Prima. Esatto. Ecco, allora sappi che questo voto però rischia di minare un po' l'intesa che si sta cercando di raggiungere tra la Svizzera e l'Unione Europea, ma te lo riferiamo nella pagina 11. Tra l'altro devi sapere che la disoccupazione nel cantone sta al 3%, ho detto 3. Esatto, non 3, forse 3. No, 3%, c'è proprio scritto così, è scritto 3. Sul Sole 24 Ore, tutti i particolari. Oggi, nella nostra pagina 11, ci sono molte altre cose che vorrei dirti, te ne segnalo una, ohimè, punto bella, i consumi. Ecco, c'è stata la conferma statistica, nelle pagine di Imprese e Territori, a luglio calo dello 0,3%, ma la cosa che più potrebbe interessarti è che il calo più forte è su libri, giornali e riviste. Meditate, gente, meditate. Nel frattempo, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta... Freuden, Funden, Freuden, Rundel, Bregen, Rungel, Dier, Alessandro, Mila! Va bene, è l'ora dei matti. E allora alle 8, anzi alle 7:49 minuti, qualche notizia sui giornali ancora. La politica è legata al Movimento 5 Stelle, ha lanciato una consultazione online tra i suoi iscritti per cambiare le regole, modifiche al non statuto, al regolamento, ai cardini fondanti, insomma, dei pentastellati, come racconta il Corriere della Sera con Emanuele Buzzi, ma tutti sono rivolti al fatto che queste nuove regole impedirebbero a Federico Pizzarotti a Parma di ricandidarsi, e infatti lui reagisce così: mi chiedo ancora se sono nel posto giusto. Insomma, Grillo, giro di vite sulle regole, così Pizzarotti è fuori dal Movimento 5 Stelle. Anche il Fatto Quotidiano: Grillo si prende tutto, c'è il lodo anti-Pizzarotti. La polemica invece non si placa a Roma, dove Salvatore Tutino, dato in predicato di essere il nuovo assessore al bilancio, viene intervistato oggi dal Messaggero Simone Canettieri. Io mi chiedo sempre perché rilascino queste interviste, questo è un grande mistero, quando stanno per essere nominati, perché questa intervista susciterà nuove polemiche. Se Raggi mi vuole, mi chiami. La vera casta, visto che lui è accusato di essere una casta, sono i politici. La casta da che mondo è mondo è collegata alla politica. E allora il Messaggero chiede: ma sta dicendo che sono i grillini la vera casta? Lasciamo perdere, io non accuso nessuno. Se mi dicono che appartengo alla casta, mi vedo proiettato in un orizzonte sconosciuto. Ma insomma, lei è disponibile a entrare in giunta, sì o no? Certo, altrimenti mi sarei tirato fuori. Ma non sono alla ricerca di lavori. Tra 2 mesi andrò in pensione dalla Corte dei Conti. E poi risponde alle accuse di far parte della casta, accusa che gli era venuta piovuta sul capo da qualcuno del Movimento 5 Stelle in passato. Vabbè, il discorso è questo, dice Tutino: se ho dato la disponibilità c'è un motivo che mi tengo per me, a prescindere dai soldi. Percepisco questo dibattito come spettatore. Se Raggi mi vuole, mi chiami. Così Salvatore Tutino, intervistato dal Messaggero. La politica racconta anche che c'è un uomo che si sta muovendo nell'ombra da un po' di tempo, si chiama Denis Verdini, racconta Carmelo Lo Papa, sta mettendo a punto il Verdinellum, la nuova legge elettorale, con lo scopo di fare da ponte tra Berlusconi e Renzi, fare pace tra i due, una legge elettorale nell'ambito del proporzionale con il sistema alla tedesca, per evitare la vittoria del 5 Stelle e far pace Renzi e Berlusconi. Il Verdinellum! Tutti i dettagli, se non volete farvi venire un mal di testa, Carmelo Lo Papa, pagina 3 di Repubblica. La nuova sfida politica di Denis Verdini. Da 2 giorni c'è questo allarme sui soldi finiti per la questione migranti. Ora c'è un dato lanciato da Messaggero e Corriere della Sera: 20.000 migranti potrebbero nelle prossime settimane uscire dai centri perché non ci sono più soldi per gestirli, loro e i centri soprattutto. Accoglienza in crisi, l'allarme del Viminale: accumulati 200 milioni di debiti con le cooperative che gestiscono i centri. Per il 2016 servono 900 milioni, ma il Ministero non eroga i fondi. L'ordine pubblico è a rischio, lancia l'allarme il Ministero dell'Interno. Eccolo qua, mancano i fondi e 20.000 profughi rischiano, potrebbero uscire. Tra l'altro c'è il nome forse del commissario, per carità non chiamiamolo commissario, insomma la persona che si occuperà della nuova task force immigrazione. Dovrebbe essere Piero Fassino, ex sindaco di Torino, presidente dell'ANCI, tra poco finisce il mandato, eccolo qua. Il titolo di Libero: trovato un posto a Fassino, diventa il capo dei profughi. Vabbè, il titolo è un po' provocatorio. Vi lascio con 2 articoli. Il primo è di Federico Fubini, è un bell'articolo che riguarda la legge 166 del 2016, entrata in vigore a settembre, una legge abbastanza sconosciuta che dà la possibilità, soprattutto alle piccole e medie imprese, di avere detrazioni fiscali per chi dona cibo. Il cibo che di solito andrebbe sprecato, andrebbe buttato via a fine giornata, votata a tempo record da tutti i partiti, racconta Federico Fubini, peraltro è una legge che sembra disegnata apposta per essere l'opposto di tutto ciò che si sa dell'Italia. È passata rapidamente. È scritta in modo così semplice che leggendola la si capisce. È così chiaro che non ha bisogno di decreti attuativi, norme interpretative, trasposizione di mandarini burocrati centrali e regionali. È in vigore e dà la possibilità, dando sgravi fiscali a ristoranti e a tutti coloro che hanno cibo, di non sprecare questi alimenti ma regalarli. Snellisce queste procedure. Il Corriere della Sera racconta questa legge a pagina 25 e mi sembra una cosa giusta. Chi dona il cibo viene premiato. Ma eccoci qui, siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo su Libero, dove c'è un trafiletto, un quarto di pagina. Nuotare di coda. Ma che dite? Che cavolo è? Nuotare di coda? Ma com'è, cos'è? Il campionato delle sirene. Si vestono come delle sirene e nuotano con la coda e fanno il campionato delle sirene. Ma chi se ne frega?